Che essendo venuto a conoscenza che stasera qui al Teatro Minore degli Acqua Sparta si svolgeva questo evento operato estremamente specialistico e editato dal titolo per il passo sulla Luna, che evidentemente riguarda tutta questa faccenda di Armstrong, delle missioni spaziali del Apollo 11 e tutte queste faccende qua. Allora sono per fini specificamente arrivato addirittura da Viterbo, che chiede una parola di verità rispetto a questa faccenda dell'armaggio, in quanto evidentemente essendo viterbese ho le competenze specifiche per parlarvi in amicizia e competenza di tutte queste faccende dell'allunaggio, viste le missioni spaziali Apollo 11, in quanto per il senso è così capito, io sono di Viterbo. Queste non è che ce l'ho perché sono di tempo, queste sono una protesi, non sono pescate nel certificato, queste mi sono messe per giorno, perché stasera che sto qua, evento performativo. Cioè, è chiaro che se stai in aspetto di sottoscala, se mi vuoto, mi vengo di zero, con delle luci addosso, cioè, tenendo testa, se in cui c'è che stai fare evento performativo, sono cose classiche, no? Cioè, altrimenti sei un cretino. C'è sempre la terza possibilità, è che sei un cretino che sta a fare evento performativo, io non me la sentirei discutere a priori nel contesto specifico stasera. Però insomma, per parlare delle cose che ci interessa in qualche modo affrontarsi in questa serata, amichevo, diciamo, per esempio questa faccenda degli americani che si sono guardati sulla Luna, che ci sta pure filmando con serie di Armstrong che cammina leggero leggero e pianta questa bandierina americana su stare tira per gatti. Beh, non è vero niente, non ci sono mai stati gli americani sulla Luna, è tutto un filmato, una macchinazione della guerra fredda, no? Quel filmato là l'ha girato Stanley Kubrick. Cioè, avete gente Stanley Kubrick? Secondo me sì, c'è gente competente da quel che so. Ma insomma, sarebbe quello che ha fatto pure quel film che si chiama 2001 Odyssey nello spazio. Avete presente 2001 Odyssey nello spazio? Ma sarebbe questo film che comincia, sto film 2001 Odyssey nello spazio, e comincia con sta discesa sulla, che sarebbe l'Africa. Perché l'Africa è il più cruda versione di tempo, l'Africa, per dire una parola scettica. Insomma, c'è sta discesa sulla, che sarebbe l'Africa, c'è sta scritto in sovrimpressione l'alba del mondo, e in questo momento siamo nel paleozoico mesolitico, una cosa più super di lì, e in questo momento storico, diciamo, te ne racconto l'inizio perché mediamente di nuovo si addormenta. Però l'inizio rimane in c'è manca pure questo, è la stessa volta che lo però non facciamo proprio come sta facendo, se no rischia di durare confeggiato questo spettacolo, quindi cerchiamo di far finta che siamo in una situazione regolare. Allora, c'è sta stessa bruna che sarebbe l'Africa, che ci sta scritto l'alba del globo, appunto che sia, siamo nel mesozoico, quello che diciamo, e in questo momento sta stessa bruna è popolare come nella popolazione corrente divisa di scimmie e tabiri. Non c'è niente altro scimmie e tabiri nel bruno africano nel mesozoico, no? E già qua c'è sta la macchinazione geopolitica, la classifica sudamericana della guerra fredda, perché mi sono informato quando faccio una relazione civile che informo meticolosamente, non c'è stato i tabiri in Africa, ci stavano i macoceri, solo che i macoceri hanno le zanne, sono già un carattere anche abbastanza incazzato, se vedete l'ufficio casting, vediamo di detto al pubblico, se ne sali qui a vivo per rimanere a questa, abbiamo solo tabiri, lessi e renditi, scegli uno che lo scelgo esattamente con la sua logica specifica. Ma insomma, mesozoico africano, scimmie e tabiri, in questo momento storico scimmie e tabiri, a livello intellettuale siamo proprio a livello paritetico, ragionano continuamente perché per uniti e tiktok, non c'è nessuna differenza intellettuale. Quando a un certo momento arriviamo all'ansiolitico superiore, piomba in questa merda, c'è un monolito cubico tutto scolato agli anni, sarebbe proprio il prodotto di più questo film, questo monolito. Cioè proprio la cosa che tu appena hai visto il film, andrei a comprare davanti e ti chiedi, ma che me la presenta questo cubo qua? Eppure all'inizio quando finisce il film, no? Perché ti raccogli che finisce il film perché si riaccende la luce in sala e ti risvegli. La prima che cosa che fai? Io chiedo al vicino, scusa, che me la presentava quel cubo là? Dormiva pure vicino. Dice che universalmente tutto il mondo mondiale alla proiezione del mondo nello spazio si sono addormentati tutti, per questo rimane ancora in evaso il mistero di che mi rappresenta il monolito, no? Cioè c'è sta solo una persona che è rimasta sveglia per tutta la proiezione del suo film, si chiama Kenzi Enrico, ma io gli direi che si rappresenta il cubo, cioè più facile che te vedi una soluzione specifica per te. Comunque, al suo video superiore arriva questo cubo monolitico, non squadrato bianco. Le scimmie curiosite toccano il cubo, immediatamente diventano intelligenti, non tanto da capire che mi rappresenta questo cubo, ma c'è sufficientemente da rendersi conto che c'è una stazione retta, un po' leggeponibile, fatta in qualcosa di utile, che fanno? Pigliano il primo osso nel tabino che si trovano già scolpato in circolazione e iniziano a mazzoccarlo in testa ai tabini, ma è così che inizia secondo la tesi di questo film, dominano lo spazio, la civilizzazione umana, cioè la tecnologia, attraverso questo osso di tabino che infatti come metafora della tecnologia umana viene spegnata in aria da un scimmione e si trasforma con una disturbanza di crociera molto famosa in una macchina e in una suonare, poi qua il film è specie sulla Luna, e per questo che andiamo ad usare con più velocità e più quando passo per l'ultimo. Cioè c'era già le scenografie proprio, non spendiamo niente in post-produzione alla massa. Fatto sta, dobbiamo un attimo storicizzare storicamente la faccenda di cui stiamo occupando. Siamo agli anni 50-60 del secolo scorso, c'è stava la guerra fredda, cioè c'erano gli russi e gli americani, che si stavano a fare la guerra fredda perché si chiamava fredda perché non si proprio direttamente attestate atomiche che sono rischio di compromettere quel sistema sostenibile, per cui sta corsa la metabolizzavano al livello delle corse allo spazio, missili resi, cazzatelle e così. Fatto sta, ci stavano i russi che stavano dai russi e gli americani. Avevo prima mandato lo Sputnik in orbita, ci ho messo la cagnetta larga sullo Sputnik, che prima per motivare la cagnetta larga gli avevano lanciato in stile 2001, non solo teatro, ma anche no? Poi avevo mandato Yuri Gagarin in orbita, che per motivare Yuri Gagarin gli avevano mandato sta foto dei notti, dai, raggiungi, insomma. Gli stavano dalle viste del brutto, i russi e gli americani dicono, ci dovevamo fare qualcosa di importante, qualcosa di memorabile con noi, che facciamo? Mandiamo l'uomo sulla Luna, ci mandiamo Neil Armstrong, un dritto sputato sulla Luna. E insomma, fanno il programma con lo fino licenziati della NASA, gli scienziati sono gente precisa, ragionano loro secondo un sistema metrico decimale, per questo programma non strutturano così, dice a volo da 1 a 10, ma le prove 11 ce lo mandiamo, sono gente così, guardate, gli scienziati bisogna secondarli. Fatto sta che comincia il programma a volo 1, 2, 3, fanno una scorreggente e manco se sollevano la terra. 4, 5, 6 schioppano in partenza, 6, 8, 9, 10 schioppano mezz'aria. Mancavano 2 settimane alla notte fatica di tra il 20 e il 69, avevamo già fatto tutto quello che sapeva in questi casi, il figlio stampa, Armstrong, da Maria del Figlio, tutto quanto per pubblicizzare la situazione. Convocano Armstrong, non sapete, riservata della NASA, gli dicono tempi lì, con la faccenda sta così, al 90% schioppi in partenza, 10 schioppi a mezz'aria. Quindi, se dobbiamo inventare la soluzione, abbiamo pensato, chiamiamo Stanley Kubrick, è un assoluto professionista, non ci sa già nessuno di pronto, non spediamo niente. Facciamo questo filmato di dentro sto scaffando a volontario che piange sta bandiera americana su sta lettera per piatti. Lo mandiamo in onda con tutti i pixel e righette smarmolate che sembra che arriva dagli spazi universitari, mentre invece trasmettiamo comunemente a decorata, nessuno si accorge niente, fa un fine. Sì, comincia a piazzare il brutto in alto, scusate, ma io sono 10 anni che studio ingegneria spaziale, da 10 anni che imparo a guidare i seri, da 10 anni mi sveglio tutte le mattine e alle 6 di mattina mi faccio 20 giri di campo di Cape Canaveral che non mi dica il campo di boccette e tu mi fai già il film. Ma allora me la trovavo con un annetto dentro studio, con i subordini, nella settimana del seminario con Danimo Manfredini, ero finito. Non ne costava niente, anzi non c'era il carattere peggio che un qualcosa. Erano tempi duri alla NASA, chiamano la CIA, che si beccavano tutte le patate bolletti, la CIA, l'hanno preso Armstrong, l'hanno ridotto allo stato di animato e l'hanno infilato uno dei milioni di lettori gemelli che stavano più di 2 anni di gemelli. Che poi pure sta facendo i lettori gemelli, non c'erano da ieri, soprattutto quello che avete detto, siamo gente smaliziata, cioè lo sappiamo tutto. Bin Laden stava nei libri propaganda della CIA, si vede che tutto, non chiamato la CIA, perché senti fin, qua c'è dei fasparisti proprio che sulla faccenda della sparizione di Armstrong sta cominciando a andare del tutto le campanelli. Ma questa è un'altra storia che sicuramente porteremo a vedere a questa parte nella prossima relazione civile che faremo. Ma insomma, a sto punto, cioè, stavano gli americani che c'erano questo problema, gli americani, che stava tutto il mondo aspettando, sulla luna, che facciamo? Arriviamo alla CIA che se becca tutte le patate bollenti, la CIA comincia a sfruttare i preparimenti dalla base e becca un socio di Armstrong. Stava di tempo. Era proprio il marito della mia linea, ma si chiamava Giovanni Mammarella, per cui fatto sta che sbarca la CIA di tempo per contattare il soggetto Giovanni Mammarella. Sbarcano l'incognito, c'è soggetto per professionale, se c'erano proprio i vestiti da incognito, proprio gli spolverini tipo in bocca, diciamo, o tipo, diciamo, ma io cosa spoglie di vero? Con assoluta professionalità contatta il Mammarella, perché il Mammarella proprio nel banchetto pubblico di Terpese gli fanno tornati così per concordersi con la vita socioculturale dell'ambiente di Terpese, gli dicono, senti Mammarella, se interessa di Cicampino, guarda, se è andata a fare un stadio pubblico, non lo scacciare come fate di Vanzini. Caspita se ti interessa, dico, pensa che 10 anni fa ho fatto questo segnale con Dario Manfredini, adesso sto qua a fare il video di Tizia di Vento, la mia occasione, l'unica cosa è Mammarella. E dobbiamo cercare un pseudonimo, perché onestamente, diciamo, Giovanni Mammarella, un film di Stanley Kubrick, fa cagare. Insomma, anche d'altra parte, diventa un gruppo pure Clint Eastwood, non è che si chiama mica per la mia Clint Eastwood, lo sai, no? Si chiama Antonio Mammarella, che è il tempo pure lui, solo che non è che fa Antonio Mammarella per un punto dell'oro, perché è il massimo che combatti per una manciata di datori con un nome come Antonio Mammarella. Mi affido completamente a voi di vedere le immagini. Bene, allora abbiamo pensato sul pseudonimo Neil Armstrong, ti piace? Un'altra cosa, Mammarella. Incognito totale, si rende subito sto film, deve uscire una bomba, nessuno deve sapere niente, allora tu una mattina fai così. La CIA c'è un piano fatto per fare la gente che va a lavorare, cioè, gli dicono fai colazione con tuo moglie come niente fosse, a un certo punto gli dici mi vado a fumare un pacchetto di sigarette, vediamo che possiamo lavorare, è il piano standard della CIA, per sparire le solite, c'è gente che conosce, che sparisce tutti, stanno tutti a lavorare alla CIA, sono chiari. Fatto sta che l'indomani mattina non pare la con estrema freddezza si mangia i complessi con la moglie, poi senza lasciar travelare nessuna informazione extraterritoriale, ma senti che adesso me ne vado a fumare un pacchetto di sigarette. E qui succede qualcosa che si rimane alla legge, hanno così sapientemente studiato la CIA, perché la moglie guarda verso gli occhi e dice ma quando mai abbiamo fatto in questa casa Giovanni? Ma qui Mammarella dimostra la freddezza che dovrebbe avere nell'opera quella di segnale, perché la guarda altrettanto vista negli occhi e dice comincio stasera donna, e poi niente, non diamo la volta. Cinematograficamente in realtà per fare una sequenza estremamente elementare, cioè l'unico piano sequenza c'è stato con Mammarella con il suo scafandro alla colomba lunare, che c'era pure esperienze per la pesca ai conni e palamiti sovrappeso che simula la carenza di gravità della Luna, si faceva la passeggiatina, gli andava una bandiera sulla lettera, buona la prima, cioè fosse lo stato di vagina, era buona la prima. Kubrick era veramente un regista meticoloso, gli ha fatto ripetere 27 volte questa scena. Ci stava in Mammarella, si faceva sta camminata, gli andava la bandiera, si accorgeva la telecamera, si aveva il casco e salutava e Kubrick, che era veramente migliore, faceva. A me non mi sembra credibile questa scena Mammarella ripetere, alla fine non si è tolto il casco. Tant'è che la notte fatidica dal 20-21 luglio 69, che insieme al mondo internazionale c'è stata pure la moglie di Mammarella, da 2 settimane che non vedeva il marito, non lo riconosceva, col casco di tutto, stava là, se guardava questa cosa, se guardava questo, che sono pettava sulla luna e pensava che se beata l'unghista così leggero, nel frattempo aveva cominciato a fumare esattamente l'epoca. Questo per dire la verità storica che sta facendo dal 20-21 luglio 69. Il resto che vi racconta sta gente sul spettacolo, ma la serie bene, non è gente affiabile questa qua, a meno che c'è non la conosciate di persone. Bene. Però ci dovrei essere in un contesto di professionale stasera perché c'è. Per il mese. Ma quelli che ci sono. Facciamo che era buio e c'era il cane con i piedi puzzolenti e io ti chiamavo, tu venivi e gli dicevi vai via. Anzi no, facciamo che c'era il cane con i piedi puzzolenti e tu gli toccavi i piedi puzzolenti e allora ti usciva una zucca dalla testa e tu morivi. Va bene amore, facciamo che io ero morto, ma poi non ti svegliavi più. Innanzitutto consentitemi di esprimere tutto il mio disagio, la mia commozione, finanche il mio cordoglio per essere qui a commemorare la scomparsa di una delle figure, ma forse dell'antifigura più rappresentativa del teatro italiano, forse europeo, ma forse mondiale, Andrea Cosentino. Figura straordinaria di attore e autore teatrale, uomo di teatro tutto tondo, scomparso prematuramente all'età di 42 anni, pensate, giovanissimo, 42 anni, poco più che un ragazzo, un adolescente prepuberale, un fan prodigio del teatro italiano, ma anche dato la propria carica provocatoria dei suoi lavori, un fan terribile del teatro italiano, proprio in estrema sintesi, un prodigio terribile del teatro italiano, coraggio, un vero Cosentino che prende il meglio del teatro del Novecento, soprattutto nel 2000, che si muove a cavallo da due secoli, così uno spartiacque per due millenni. Cioè, prende il meglio del teatro del Novecento, si porta a cavallo sul 2000, che prende il Pirandello, costruito uno, nessuno sul 2000, chi siamo, non siamo quello che pensiamo di essere, quello che gli altri pensano che noi siamo, desiderio inconciliabile, specialmente se tu pensi di essere un genio e gli altri ti reputano un deficiente, e se lo porta sul 2000. Un regista che prende l'atto Brecht o Brecht, secondo la correzione, Bavarese, e se lo porta sul piano didattico, identico, cavalcando didatticamente verso il 2000. Un regista che prende lo porta a calci in culo sul tempo che sui 2000 tanto di scegliere. Un tempo sentito che prende fino a Bausch, la porta forse con poche competenze, ma non sono prima che nel 2000. Un tempo sentito che prende la nostra velocità e quindi via, lascia andare. Dai, porta qua, via, perché non ti porti qua le due cose. Artista straordinario, senza peli sulla lingua da morto, su quei vantaggi delle lingue morte, uno muore se devi la lingua, dice quello che cazzo ti pare, te lo faccio da cagare. Un tempo sentito, figura straordinaria. Di dramaturgo intellettuale più buono, in cui capacità di scrittura e pensiero, se vedete, sono in qualche modo state nascoste e sottese sotto la sua straripante potenza attoriale. Attore straordinario, lo sentì. Attore di parola, di fome, ma anche artista della nobilissima mimica facciale, ma soprattutto attore gestuale. Una gestualità inerente sperimentale, pare che negli ultimi tempi della sua vita si è sperimentato la possibilità di una disconnessione del gesto rispetto al testo. Chissà dove l'avrebbe portato questa ricerca di continuare. Ma purtroppo, scomparso. 42 anni, pensatissimo. 42 anni, un feto. Tra gentili, un feto delle straordinarie capacità trasformistiche, praticamente una cellula staminale, dalle infinite possibilità metamorfiche, pare che gli bastasse cambiare una postura e un gesto per rendersi completamente irriconoscibile, così magari si fatto sta che gli riempiva i suoi spettacoli tutti i personaggi diversi, tutti parlavano così, tutti accomunati dalle sentate diverse figure dimenticate. Perché? Questo florilegio di mentecatti, perché questo sfoggio di capacità istrionica, cosa voleva, così voleva forse essere ammirato? Ma perché voleva essere ammirato? Cosa c'era su questo bisogno di ammirazione? Voleva forse essere amato? Ma perché voleva essere amato? Cosa c'era? Cosa c'era? Di amore, cosa c'era? Quello che c'era, e posso dirlo perché lo conoscevo bene, però che lui voleva davvero profondamente, erano tante pezzi. Voleva essere venuto bene, come noi tutti d'altra, come me, come voi, ma forse a lui non gliene abbiamo voluto abbastanza. E adesso ormai è tardi. Per quanto vuoi. La salma è ancora calda. Ma noi siamo qui per raccontare la figura psicologica del Cosentino, compito del quale si occuperà un convegno già in preparazione alla terza università degli studi di Viterbo, dal titolo Cosentino e i suoi edifici, ma siamo qui per parlare di quest'opera che lui ci ha lasciato. Un'opera posta. Grandi capolavori postumi, quel poi di Büchner o Büchner, secondo la tradizione bavarese, della quale ci rimangono pochi indizi, ci rimane questo titolo, premio in base sulla luna, titolo straordinario e evocativo, e ci rimane soprattutto quello scatolone, dove il Cosentino andava inserendo, infilando tutti i materiali e testi di Viterbo serviti per la costituzione drammatica di quest'opera, che purtroppo non verrà mai alla fine, se lei scomparsa quanto due anni. E dunque, in queste anguste c'era serate commemorative. Ci accingiamo a capire che tipo di lavoro stai se creando, così gente non crede che la morte ce lo strappasse. Vediamo intanto cosa interrogando, è stato un monolito così interrogare con il soggetto, con affetto. Vediamo cosa contenta. Abbiamo intanto. Cosa ci dicono saperle interrogare in questa casa, queste scarpette? Intanto ci dicono che questi primi passi sul mondo sono sì i passi di Amazon sulla superficie polverosa della sua sintetica, ma sono forse anche più profondamente quello metaforico. I primi passi di un'infanzia che si affaccia in continenti sconosciuti e inesplorati. Continuiamo a interrogare in questo momento. Parliamo qui, un testo, una cosa molto importante per l'agenzia di sospettare, la Bibbia, in qualche modo adesso dobbiamo un attimo interrogarci anche sul mondo, sul contesto di quest'autore, della Bibbia. Chi è la Bibbia? Dobbiamo parlare un attimo di questo, di chi è. Intanto la Bibbia è opera di Francesco Tullio Altano. Chi è Francesco Tullio Altano? È un disegnatore satirico che soprattutto nel giornale della sinistra disegnava e disegna tuttora questi cipputi, cioè questi operai, questi metalmeccanici che li disegna costantemente con un ombrello incastonato nel divieto, quasi di San Sebastiano Nario, dovrei dire, una metafora, no? come metafora della condizione operaia nell'Italia post-fordista. Mentre appunto per gli adulti li disegnava così San Sebastiano Nario, pensate, per la figlia inventò la figlia. Ma chi è appunto la Bibbia? Che mondo è quello la Bibbia? Intanto è un mondo animista, cioè la Bibbia è un animale e parla, no? È un mondo animista non perché non solo gli animali parlano in questo mondo animista, ma anche gli oggetti, cioè ad Altan basta disegnare su un frigorifero, su una lavatrice di occhi, una bocca mediamente sorridente, un mondo ottimista oltre che animista in qualche modo, e questo si esprime a parole, ma a questo punto dobbiamo porci una domanda fondamentale per la genesi proprio sentiniana. Cioè nel vasto universo bibliografico della Bibbia che evidentemente conosceva amava, mi ha detto, diciamo, cosa sceglie per costruzione della propria quest'opera, così sentito? Avrebbe potuto scegliere, che ne so, la Bibbia e il fumo sognatore. Avrebbe potuto scegliere la Bibbia e invece Totò. Cosa sceglie invece, così sentito? Attenzione, la Bibbia è lui. Straordinario gesto tra un attore, cioè parlare siamo ribelli, diciamo, di genialità, terribile, ma a questo punto è dopo che io vi racconto brevemente la trama di questo importante testo drammaturgico, perché questa cosa aiuterà a capire il proseguo dell'opera prossima del Cosentino. Dunque, brevemente, la bimba e le due lune. Il testo inizia nella tenerezza della bimba, la quale sta per assopirsi, quando arriva di corsa il telefono, anziché squillare con un telefono ad un dottore, per fatto, riesco a porre due a una bocca, ovviamente sorridente, e dice: bimba, bimba, svegliati, qualcuno vuole parlare con te. Affaccia la finestra, la bimba si affaccia alla finestra e c'è la luna con un telefonino in mano. Qui inizia quello straordinario dialogo di quest'opera. Perché la luna dice: questa sera non ci sono le stelle, non sapevo con chi parlare, ne annoiavo, voglio parlare con qualcuno. Ma perché chiedere la bimba non viene direttamente in cameretta mia, che parliamo senza ausili tecnologici, risparmiando lentamente le ricariche telefoniche? Non può! Qui la bimba se ne esce con una frase che così non amava molto, tanto l'aveva sottolineato nel testo di sua provenienza, una frase oserei dire degna di uno Shakespeare o di un mago, appunto di un'esempio elisabettiano, delle profonde connotazioni metaforiche. La luna dice con, lasciato testualmente, se la trovo un attimo, non posso, attenzione, se me ne vado il cielo resta buio e se ne accorgono tutti. Poesia, questa è poesia, poesia. Bene, a questo punto la bimba inizia a pensare, si vede il pensiero furbetto della bimba che nascono le sue avventure. Cosa fa? Qui non vedete che si è passati perché bisogna portarsi in un che vedete che sono spettacolo. Cosa fa? Prende un foglio di carta argentata, delle forbici e un tubetto di colla. Ritaglia una mezza luna di carta argentata. Chiama un suo aiutante magico, ha una serie della bimba di aiutanti magici delle varie situazioni di locomozione, questo deve andare lontanuccio, quindi chiama il razzo egidio, questa specie di pistiletto con gli occhi poco sorridente, però nonostante per la procedina prima di partire, ma sorride comunque, con il razzo egidio va sulla luna, va in cielo, prende la luna vera sul razzo egidio, incolla la luna di carta argentata sul cielo, ora non so che tipo di supporto possa essere il cielo, ma siamo in un universo con tutto ciò è plausibile, torna con la luna in camera sua, parlo e più di meno, poi la luna è stanca, torna di nuovo con l'argentino in cielo, riporta la luna, ritorna nella sua cameretta la bimba, sta finalmente per assopirsi quando il bimbo arriva armando il padrone e sodale la bimba e dice: bimba, bimba, sveglia, dice qualcosa di strano in cielo. La bimba si affaccia alla finestra e in cielo ci sono. Cioè, vedete cos'è interessante di questo, per sentire? Cioè, queste due luci in cielo, indistinguibili l'una dall'altra, ma una vera altra vita, adesso sono dimensioni della verità, non possiamo ricaricare il nostro autore intellettuale, insomma, del posto 900. Ma a questo punto, possiamo continuare, prima di continuare a interrogare il nostro monolito, volevo un attimo contestualizzare storicamente lo spettacolo ormai di qualche anno fa, cosa succede? Siamo nel 2009, ecocentino, diciamo, una carriera, diciamo, artistica passata, diciamo, negli spazi off della capitale romana, e evidentemente tuttora, insomma, succede qualcosa di simile. Decide di fare un suo ingresso trionfale e fantastico nel mondo del teatro commerciale sovvenzionato, dunque sceglie di prendere i finanziamenti degli anniversari del momento, ovvero in quel momento che noi si festeggiavano e si finanziavano soprattutto a Roma, e l'anniversario dei 40 anni riconosce la Luna. A quel punto il Cosentino ha una straordinaria idea commerciale, cioè perché con uno spettacolo perde i finanziamenti di più anniversari? Perché non metterci per esempio i 100 anni dal manifesto del futurista? Cosa diciamo il futurista? Fotomazziamo il Chiarcino, c'entra sempre. Perché non metterci i 400 anni da quando quelli che erano portati sui commerciali sulla Luna? C'è straordinaria operazione commerciale che stava costruendo il Cosentino. E poi c'erano alcuni anniversari che gli interessavano un po' di più degli altri. Chi conosce il suo teatro capirà, chi non meno. Insomma, in particolare nel 2009 si celebravano i 50 anni della creazione di un oggetto che a lui era molto caro, ovvero i 50 anni della creazione della prima Barbie. E lui, pensate, si era procurato per questo spettacolo addirittura, eccola qua, un attimo che si è incastrata, si era procurato, si è proprio incastrata, bellissimo. Una Barbie stonata. Oggetto rarissimo, si è introvabile in Italia, tant'è che inizia era fatto arrivare dagli Stati Uniti tramite eBay, dunque 30 euro di Barbie più 20 di spedizione, in totale 50 euro, immaginate che è, vi assicuro, il più grande investimento che abbia mai fatto per sopravvivere di un suo spettacolo. Dunque immaginiamo che il tipo di ritorno economico si aspettasse a questa operazione, sono purtroppo spese che ricadranno sulla famiglia. E poi c'era un altro anniversario che gli interessava particolarmente, ovvero che 10 anni dalla scomparsa di un regista che era molto caro, stando in pubblico, evidentemente. Quindi in questo caso gli è ricorso alle sue solite scenografie incraniose, dunque abbiamo qui una scatola di scatto per fare il monolito, diciamo, qui nella sua sciatteria non si era neanche premurato di cancellare la scritta Silvia Rossini, che pubblicizzava chissà che pubblicità al settore partigiano. E poi andiamo invece, sempre per pubblico, abbiamo detto, ma quello so di capire, questo non può non farvi menzionare quella che fosse la più straordinaria, insomma, incrociata la scenografia di tempo, questo luogo, di quest'osso che è simbolo della nascente tecnologia umana, scagliato in aria da uno scimmione che diventa uno straordinario, insomma, incrociata, pensate, addirittura sta scavalcando anche innovazioni importanti tecnologiche che possono essere l'aspirapolvere e la lavata, diventa, pensate, ecco, un'astronave, pensiamo, per capire cosa sarebbe stato questa stessa aspirapolvere nelle mani dei registi meno talentosi, cosa avrebbero fatto questa vivanzina, al massimo sarebbe diventata, possiamo pensare, una panda 30 che si capottava sulla muscolare, per capire le differenze, insomma. E poi continuiamo a interrogare il nostro monito, abbiamo qua questi, gli occhiali, qui si funzionano così, in modo strano, si funzionano così. Cioè, questo sono io. Cosa significa questo punto di arte straordinario? Io stesso non sono altro che uno degli esempi personaggi mentecatici della fantasia malata del Cosentino. Quindi attenzione a cosa succede adesso. Qui succede qualcosa di fantastico. Io mi tolgo gli occhiali. Flashback. Non è capito, non sta a essere niente. Sono qui con gli occhiali. Sono il clima. No, quindi no, tu sei niente. Attenzione, il clima. Però il critico che sta parlando di cose di non morte, improvvisamente il critico va, tu sei in casa, non c'è sì. improvvisamente con questa cosa di dico? Cosa vuol dire questa cazzata? Vuol dire che i primi 20 minuti di questo spettacolo per assistere all'inizio essenzialmente per arrivare a chi è presente e sbarcare chi dice una cazzata, ma gli ha detto la propria vita, no, non si sconta questa cosa che dice lì. E poi per dire un'altra cosa, che questo, come dice nel sottotitolo, è che la versione provvisoria di uno spettacolo postumo è uno spettacolo postumo, ovviamente non per questo modo, ma perché è uno spettacolo che io non intendo portare a termine. Perché mi succede questa cosa qua? Quando uno spettacolo magari lo fai in un olio, dici da bene, lo fai tutte le sere tutti i giorni regolari, succede che magari agli spettatori questo spettacolo funziona, ma te che lo fai, se non è che diventa comunque, diventa come una di quelle preghiere magari recitate tutti i santi giorni, tra virgolette, che quando arriva il momento del bisogno magari capace non funziona più. Allora io dico, siccome questo spettacolo parla di cose che io vorrei continuare a tenermi addosso, mi ho detto non lo scrivo questo spettacolo. Io in questa serata semplicemente do agli spettatori gli ingredienti con cui avrei costruito questo spettacolo se avessi avuto voglia di farlo, ma io non lo faccio, poi non si rimonta a casa se uno mi butta all'uscita. Ma insomma, e neanche recito tanto questo spettacolo. Sì, cioè ogni tanto faccio le mie macchiette, sono i miei indicati per divertirci un po', però di base non recito, quindi in questo spettacolo recitare no, perché inizio queste chiacchierate sempre da questo modo di dire, ma non c'è questo modo di dire, ma io ti indico la luna e tu mi guardi il dito, beh, in teatro comunque la luna non c'è. Quindi per quanto un attore possa essere, anzi tu è bravo un attore, è meglio indicarlo. Più la gente rimane male, perché in alto non c'è niente, no? In fondo che mestiere sarebbe? Che mestiere, cosa vogliamo noi attori? C'è chi deve sapere, ho citato per il negro. Che cosa vogliamo? Noi vogliamo lasciare la vita. Cioè, questo non c'è, il nostro piano, la nostra ambizione è quella, no? Poi però ci sono tanti quelli che fanno, però che c'è l'attore tradizionale, quello, no, guarda, la luna. Io non sono bravo a vedere, io voglio che la tradizione, l'avanguardia, le esperienze, sai, l'indietro, no? Tirare il brano, no? E tutti vanno a cercare, alla fine voglio dire, la luna non compare. Allora, secondo me, questo spettacolo, io voglio farla compagnia, la luna. Ok, non regge, certo, meno che... Perché tu non hai il soffitto del teatro, diciamo, magari una luna finta, ma tipo quelle fosforescenti che si mettono sulle cavette dei bambini, no? Allora, che tra l'altro io ho messo. Io ho una figlia, si chiama Daria, e soprattutto lei che parla che sono uno spettacolo, eh? E sono luce nel senso, ma poi. Vabbè. Però con Roma 20 anni e passa, ci sto bene a Roma. Però quando aspettavo Daria, aspettavo che nascesse Daria, per la mia volta in vita mi ho pensato, forse non torno a vivere a Chieti in Abruzzo. Perché mi sembrava strano far crescere una bambina in un posto dove appunto non puoi giocare per strada, dove la luce della luna è ammazzata, la luce dei campioni, non c'è traffico, non c'è vento, insomma, e dico forse voglio che mi riesca a Chieti, poi ci ho pensato in perse con il tuo caffè, allora però che ho fatto? Sono andato alla cartoleria sul caso delle cinesi, ho comprato queste decalcomanie fosforescenti con la luna, le stelle, c'è addirittura una cometa, e gliel'ho messa proprio sul soffitto della sua cameretta, proprio dello zenith del suo lettino addirittura, all'inizio ho pensato adesso faccio lo stanaggio e non so proprio dove ho fatto il cazzo, perché l'ho messo forando, con la luna al centro, e stanno solo lì, no? Solo che Daria non l'ha mai vista queste cose qua. Cioè, perché le cose fosforescenti funzionano che loro ti assicurano luce di giorno e adesso ci sono a lui. Però non è che una bambina tu la metti a letto con le spegnali, cioè solo un po', no, non funziona così. Cioè, è complicato andare a letto per una bambina che è uno spegnimento, ci sono dei rituali. A proposito, io avevo un pistolino d'arte magico per far fare a Daria le cose che da me non accettava, una serie di cose che da me non accettava, che a proposito le dito e luna e lui, no? Uccidendo, diciamo. E poi mi faceva una vocina di Daria accettava da lui di fare le cose dove non dico. E non so, poi lei sapeva che io anche non lo sapeva, funzionano strani i bambini. So. Essenzialmente per Daria io avevo essenzialmente due spettacoli in repertorio. Uno si chiamava diciamo, Mangia le verdurine e l'altro chiama Anna. Niente di straordinario, il drammatico Fuggio, in questo caso era molto molto. D'altra parte anche le storie per il Pulcinella di Portini sono molto semplici a livello Fuggio. Cioè Pulcinella l'avversario di solito è questo. L'altro che gli ho pure comprato, dai, fare il gioco completo, la subito una faccia che probabilmente si accade, gli ho nascosto dove non potesse più trovarlo neanche per sbaglio, si combattono, alla fine uno vince, l'altro muore, miracolosamente chi muore è la morte, e dove si diventa i bambini dove possono partecipare, cioè essenzialmente vado a un lato, e quando ogni tanto il Pulcinella si rivolge, gli fa delle domande, dico dove si è nascosto, e tutti dicono sì, di là, di là. Allora comunque, gli spettacoli del settore primario. Il primo è Mangia le persone. Ma non vi aspettate tanto tempo, una cosa però da sperimentare, insomma, la sola cosa che lo spettacolo che conosco è il contesto che uccide con il titolo, essenzialmente, e fa così. Poi Dario, mangia le verdurine. No. E mangia le verdurine. No. Ma voi dite, signore, è vero che mangiate voi le verdurine? Sì. Beh, c'è il momento prendiamo di questo spettacolo, cioè, nel senso, cioè, chiaro che non ci sono bambini in scena, no? Cioè, non ci sono, non so neanche dietro, che no, stasera ho il problema di lasciarlo, no, non ci sono, non so. Però ti dà il potere di ricattamento dell'infanzia, no? Tutti, no, andiamo a sapere la bambina, se non mangiare. Cioè uno si sente in particolare, cioè, è difficile così, ma in genere non si sente. Vabbè, insomma, lasciamo stare. A te soprattutto in questo spettacolo è legato sull'infanzia. È un tasto delicato, sono suggerito. Ma dai, non mangio. No, non le mangio. E se non mangi le verdurine poi non fai la carta molla. O vedi questi. No, non ci prendo questa umiliazione da questa sera. Il secondo spettacolo repertorio è Andiamo a Nanna, essendo sperimentale il testo fa così. Poi Daria, andiamo a Nanna. No, e andiamo a Nanna, va bene, però non spegnere la luce. D'accordo? Però mi leggi la storia. Ma io sono analfabetico e non faccio legge. Sai che? Faccio legge a papà, che quello è un attore studiato. Il secondo passo di questo rituale è la storia. Ora, io quando aspettavo le figlie, pensavo, la che incosciente che sei, a far figli con questo mestiere che non sai che cambierai domani, domani o anche oggi addirittura. Cioè bisogna essere incoscienti. Però non voglio mai stessa pensare con molto molto orgoglio che culo sta bambina è un papà attore, improvviserà un sacco di storici che devo tantissimo, giocheremo per un sacco di cose. Poi da quando è andata Daria, effettivamente mi è sempre sembrato di non avere più tempo, di essere sempre stanco di non avere più tempo per le mie cose. Per cui il mio vero desiderio nei suoi confronti, il mio più autentico desiderio nei suoi confronti, era che lei potesse piombare a dormire in qualunque ora del giorno, della notte, su qualunque supporto e qualunque. Per cui, Le storie non viene improvvisato, perché improvvisati rimangono svegli. Ieri c'è una storia che ho letto moltissimo, soprattutto quando era piccola, e Pinocchio, perché a me piace molto, da te lei l'aveva imparata a memoria. Però Pinocchio non chiede riduzione, per l'infanzia è un po' complesso, diciamo. Per cui consiglio a chi stia per diventare padre, voglio fare questo passo, insomma, ci sono questi straordinari volumetti della bimba, eccoli qua, sono straordinari. Con il foglio sono tutti strani, 10 cm quadrati, insomma, lo spessore delle pagine di mezzo centimetro, sono pochissime pagine da leggere, ognuna ha una figura a fronte, quindi solo queste da leggere, caratteristicamente, sono pochissime parole sostanzialmente. Non solo, io da attore, diciamo, in qualche modo, ho affinato una tecnica di recitazione prosodica, diciamo, di lettura, che consente di cose di addormentare il più velocemente possibile il tuo intorno. Niente di straordinario, cioè se uno parla con l'accademia è già a buon punto. Dove l'avversario di fronte a voi, orizzontale ovviamente, lo si punta e si inizia. E sera bimba nel suo letto legge una storia nel libro prima di addormentarsi. Armando dice ora di fare la mamma, bimba leggo ancora, ogni tanto si controlla lo stato della madre per il ritmo del respiro. Due righe poi dormo, risponde lei, sogni d'oro, dice Armando anche a te, dice la bimba, proprio quando bimba sta a spegnere la luce arriva di corsa il telefono. C'è qualcuno che vuole parlare con te, dice Pimpa, prende la cornetta e chiede chi sei, se ti affacci alla finestra mi vedi, dice la voce al telefono, la Pimpa va alla finestra e guarda fuori sul prato, non c'è nessuno, guarda in alto, dice la voce, Pimpa guarda in alto, vede la luna che le sorride, lei dorme. E poi fatto tutto bene, l'ho fatto. Ora, siccome questo spettacolo è dedicato a mia figlia, questo è il momento di farvela conoscere. Pure. Tirano subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato, c'è di nuovo un pezzo di legno. Il pezzo di legno capitava fra le mani di un falegname chiamato Massicchietta, per via del giornasso sempre rotto con una figlietta che voleva trasformare in una gamba di bambino. Ma appena il falegname si assise a tagliarlo, il legno cominciò a lamentarsi. Ai, che la manutina nel corpo ti accetta. Smetti, mi fai pizzicolina sul corpo, spirò, e adesso ho bisogno di un corpo di pianta. Ma tu si vieta spaventatissimo e si serve di regalare un pezzo di legno antico, di nome del petto, che è proprio in quel momento veniva bussata alla sua porta. Poi ho fatto fatto un burattino di legno di tutta la vita. Un burattino speciale che sappia ballare tra i santi mortali con cui girerò il mondo di sette petto. Che stiamo filmando, è patetico, qui stiamo proprio annegando la melassa. Allora, cerchiamo un attimo di riprendere il filo del discorso che ci interessa affrontare questa sera di informazione, no? Questa faccenda, sia i cani sono andati, non so come questo ci interessa profondi, no? Lasciate perdere questa roba che ho in testa, perché è il regista, diceva, mi ha detto, questo spettacolo, non abbiamo un testo, non abbiamo scenografie, puntiamo tutto sui costumi. Secondo me è una cazzata, cioè secondo me mi ha messo in testa che è complicato, diciamo, da un po' di razza per screditare alla base e accreditare la testimonianza. Ma sono piccolezza, cioè, non mi voglio occupare. Sai questa storia che c'è gente che dice che gli americani non sarebbero mai andati sulla luna, che addirittura il filmato l'abbia fatto Armstrong, cioè queste balle qua, dai ragazzi, cioè questo tutto questo anticomunismo, queste idee sociali, cioè ancora, dai, cioè è caduto il comunismo finito, è caduto il muro di Berlino, abbiamo pure il presidente negro, che cazzo volete di più, dai, cioè, è statistico, la notte del 21-69, in tutto il mondo internazionale non c'è stato un culto, un arabino, uno scappellotto, un omicidio, un cazzo, c'erano tutti lì davanti a Milano. E questo cosa significa? A saper ragionare su cose. Significa che se tutti guardassimo di più la televisione, il nostro sarebbe un mondo migliore, cercavamo. Cioè, basta ragionare su tutto, ma che abbia faccenda. C'è gente che dice, no, ma si vede dalle foto, sono tutte taroccate, le foto di Armstrong, ci sono delle ombre strane, di però basta ragionare su quello, la faccenda è andata così, no? Cioè, è arrivato Armstrong sulla luna, no? Dare la polo che sulla luna. Si è aperto il portellone, è sceso prima Armstrong, che ha messo il suo piccolo primo grande passo per l'umanità, là su sta lettiera, si è guardato intorno, non c'era un cazzo sulla luna, c'è solo bambini, pure aperti. Arriva dietro e dice che faccio, prendo la macchina fotografica, lascia stare, cazzo devi fotografare, qui dai non c'è niente, perché quando sono tornati alla base, la NASA ha detto ma che tiri deficienti, hanno una foto, la faceva altre perspective, non sa stai come sta dove, gli faccio il telefono finito, basta ragionare su queste cose, no? Cioè, qua c'è gente che dice che sarebbe stato Stanley Kubrick che avrebbe filmato la scena chicca, stai pure tirando col contro coglione, ma che si mette a girare sti filmatini, dai, tu sei presente quel film 2001 di Sero Spazio, per esempio, evidentemente sì. Allora, sai che c'è questo inizio con scimmie tapiri nel testo genere, beh, sai le scimmie, sono mica scimmie quelle là, no, cioè sono tutti attori con le pellicette, però attenzione. Cioè non è che il pubblico, come avrebbe fatto questo regista con Banzina, prende quattro figuranti sfigati, mette pellicette e va a cantare il culo ascoltato l'inizio film, no. Cioè, un astuto professionista ha preteso per quella scena, questa storia del cinema l'ho detto sul castorino, ha preteso i migliori vini di Londra, sai i vini che fanno i muri finti, queste cose qua, no? Ha detto, non solo, non è che il pubblico dice, voglio i migliori vini di Londra, gli metto il pellicette, gli faccio cantare il culo da vini, no, cioè, prima di dargli il mociac, è sempre il castorino che sta la foto, quindi è vero, prima di dargli il mociac, i vini. Mi ha fatto stare un anno allo zoo di San Diego davanti alla gabbia dei pesci, cioè per dire quant'era cioè, che poi ci sono stato allo zoo di San Diego e ci ho portato mio figlio che c'è un casino di animali, ma come sono arrivati davanti alla gabbia dei cigni e mi papà, ma quelli già sono in gabbia, ma perché sono tutti lì che fanno così? Beh, si vede che hanno introiettato una condizione di schiavitù e stanno subito a un livello di esperienza estetica, che so, cioè, era proprio contro con gli occhi. Poco pignolo, anche se tapiri, cioè i tapiri, prima di dare il primo chat, perché li ha fatti stare un anno allo zoo di San Diego davanti alle gabbie del Pacoce, per dire quant'era pignolo, allora, questa è la verità scientifica di questa faccenda, e adesso ti dirà tutta questa gente, ma lascia questa scienza, cioè, non è gente affidabile questa cosa, non è gente affidabile. Allora, il cuore di questo spettacolo è una cosa vera che è successa appunto nel 2009, che tornavo dalle vacanze, con Daria, mia figlia e Valentina, che è la mamma di Daria, e insomma dopo mezz'ora che eravamo tornati nella casa, tornate a casa, non quello voleva stare a casa con le vacanze, mi trovano in casa i miei genitori e mio fratello, che non è, sono in Abruzzo, io sono a Roma, però comunque, siccome diciamo la mia classica famiglia da dove dice il destino democratico della società occidentale, solo la mia famiglia è composta da una bambina, due genitori, otto zii, otto nonni, sono tipo una pirandola rovesciata, e poi tu capisci che questi nomi in astinenza da bimbi, cioè ti piombano in casa convenzione. Vabbè, parliamo di più del meno per 5 minuti, poi succede questa scena, che mia madre prende Daria e se la porta in una stanza a leggere la bimba del 2, non so che caso leggere, però sono diciamo, per esigenze della produzione, diciamo delle leggere del 2, e mio padre, mio fratello, ci affrontano, una Valentina, e io non mi ricordo come ci hanno detto, ci hanno comunicato questa cosa, perché allora sicuramente non pensavo di voler entrare allo spettacolo, per cui ve la riracconto come se fosse il dialogo di una fiction televisiva, un scelto televisivo che non è seguito. Se fosse stata una fiction di un dialogo ci avrebbero detto qualcosa del genere. Mio fratello qui, mio padre, è un po' disposto di là. Dobbiamo parlare, è importante. Pausa. Si tratta di dare. E noi abbiamo risposto che siamo citati. Però la cosa di cui non funziona proprio non fila, perché ci ripeto un po' questo dialogo da dice. E che Dario era col nonno? Cioè era col papà, quello che il cazzo ne sai che cosa è successo a mio figlio, cioè che col papà che deve tenere la potere leggere. Era successo il fatto qua, era successo che tre giorni prima di questo dialogo ero arrivato a casa dei miei genitori, che appunto sono anche delle fotografie di mio padre. Insomma, diciamo nella mia famiglia tutti fotografiamo Dario, nel senso che essendo comunque essere di nel suo 40 anni, tutti fotografiamo nella mia famiglia. Anche io e Valentina, no? Prima di vedere il gatto Penelope, no? Cioè perché noi avevamo un gatto, anzi per esempio una gatta che si chiama Penelope, ce l'abbiamo ancora in realtà solo per secondo ci sono rogate effettive, se non cioè, prima la fotografiamo sempre, non ci si dà, non abbiamo un testo, come andare a dare basta, niente di Penelope, ma appena non le cambia le fila ogni tre settimane, non c'è niente di fare le slide, le pallette, tutte così, adesso senza le stimolanze fotografiche nessuno mi rinuncerà mai, io penso alla lingua, vuoi, vado a stare Italia e in buono come fate. Per cui arrivano a casa dei miei genitori, queste fotografie di zio Mario, che ritraggono tutte Daria, e da tutte queste foto di Daria c'è in particolare un primo piano di Daria e di mia figlia, dove lei stavo riflesso in un occhio, non ho detto, però non per i riflessi rossi che si del flash di così eliminano in automatico lo Photoshop, ma un riflesso strano, bianco, una palletta bianca traslucida che coincide soltanto con la pupilla, proprio una lunare d'occhio, soltanto con l'occhio. E mi guarda, che cosa strano. Vabbè. Coincidenza della mattina, il giorno dopo, la sera successiva, loro sono a guardare sempre come fratello la televisione dove danno Quark, e a Quark però un servizio sulle foreste di mangrovie e uno sull'immigrazione di Mu, c'è questo servizio sul retinoblastoma. Allora, il retinoblastoma è una cosa, e per farla breve, il retinoblastoma è diciamo, il tumore infantile più diffuso al mondo, colpisce i bambini da 1 a 4 anni, se non c'è la facilità sei salvo. Colpisce un bambino ogni 16 anni, sembra poco, ma è tantissimo, se non ci riflette, e diciamo che le conseguenze, per capirci, della malattia, che se la prendi in tempo, cioè quella che in gergo medico si chiama enucleazione, cioè più qualcuno no, e se sa, lo si riesce a prendere in tempo, si estende. Che tra le testimonianze che io poi ho passato ovviamente i giorni su internet a cercare comunque testimonianze, ce n'è una verificata di questo padre fotografo, che continuava a ritoccare con programmi di tutti, evidentemente molto brutti, questi riflessi sull'occhio della figlia fino a perdere, cioè senza neanche sospettare che anche nell'età dell'immagine una fotografia può ancora dire qualcosa alle volte della realtà. Comunque, diciamo che l'unico modo per scoprire nella fortuna, di avere nella sfortuna, la fortuna di scoprire in tempo che tuo figlio o tua figlia abbia questo tumore appunto all'occhio, è che in una o più delle fotografie che ricalcono o lo ricalcono, compare questo riflesso bianco, questa è l'occhio. I miei sentono questa cosa, hanno ricevuto questa foto giusto il giorno prima, si attaccano, ok? Noi proviamo il giorno dopo le vacanze di venire ad allarmarci anche noi, siamo fatto tutta una serie di ricerche, mi credo, si mette su internet, ha fatto una cosa che mi credo proprio a raccontare, mi commuove tantissimo a pensarci, perché mio fratello, che è fisico matematico, diciamo, ha preso mio padre, che è un vecchietto collerico, e l'ha convinto a stare per tutto un pomeriggio immobile in una stanza, fotografando tutte le angolazioni per riprodurre artificialmente questo riflesso senza riuscirci. Poi vabbè, ha scandalizzato la foto criminale d'Italia e l'ha mandata via mail a Siena. A Siena c'è uno degli ospedali migliori per la dialisi e cura del contrasto infantile, che ovviamente non siamo stati, che lo dirige questa dottoressa, una ragazza bellissima, giovanissima, con dei capelli lunghi, neri, che arrivano a colpacci, e un occhio di vetro. E questa ragazza ha avuto da piccola questa malattia, è stata controllata presa in tempo, ha perso un occhio e ha passato tutta la sua giovinezza e adolescenza a studiare questa malattia. Adesso uno dei massimi esperti al mondo del retinoblastoma e dirige questo ospedale, che è un ospedale bellissimo, come a Roma non ce ne sono, forse a Bologna sì, so che in via Romagna in tutti casi, ma a Roma non, cioè per esempio se devo andare all'ospedale non per alcuni film già ho il terrore di come arrivare al reparto dell'olio di carico, di seguire i portantini che poi c'è la parte bianca e discutere, e dice una cosa tanto semplice che non capisce perché non la fanno più, cioè le strisce sui corridoi colorate, come un gioco infantile, cioè segui la striscia rossa, oncologia infantile, la striscia blu, pneumologia ginecologica, la striscia verde, cardiologia geriatrica, e la striscia grigia, paleografia industriale. Dove vuoi arrivare? A Siena? Certo, sì. Quando sa che mio fratello manda questa foto a Siena, via via, efficienza toscana dopo 3 giorni per arrivare la risposta dice portateci subito questa bambina, questo dialogo che parlo è avvenuto un venerdì, avevamo portato per il lunedì, e questo spettacolo qua, questo non spettacolo, questo spettacolo lo metterei appunto tutto intero se avessi la voglia di liberarmi di queste sensazioni, ma delle cose che io ho pensato, ho avvertito e sentito in questi 3 giorni di attesa. E innanzitutto di questa di una scena, innanzitutto c'è stata questa scena, c'era questa scena, allora, era stato detto lì, non c'era più niente da dire, diciamo c'era mia madre appunto sempre in quella stanza lì, c'è la bimba lì dove non andare, Valentina è in un'altra stanza a piangere, e rimaniamo in salotto il nome della famiglia, cioè io, mio padre, e a piccola riflessione su mia madre. Si dice che noi da anziani, da vecchi, insomma, cioè, non è giovane, ci portiamo addosso le rughe delle espressioni dominanti che abbiamo avuto per tutta la nostra vita. Mia madre, che controlla giovanissima, ha fissa sul volto un'espressione che è 50% al 50% mista di disgusto e disperazione. Allora, un'espressione come un'altra poi passa in giro, dipende dai contesti performativi. Per esempio, l'ultima volta che c'è stato il compleanno di Ari, che abbiamo dato tutti gli amichetti da scuola, non so, l'animazione scarta la carta, poi donna, nonna, dai tu la torta. Poi ci fai un film. Ok, però, quello che voglio dire, io mi piace sempre fare un po' di cultura in questo momento di questa realtà racconto, cioè, citare Baudelaire, no? Cioè, questa poesia famosa di Baudelaire, l'Alba, per noi si parla di stato, di succello che cade sul ponte della Milena, dell'Alba, tutti questi marinai ignoranti, quello dei Nio, che brutta bestia questa qua, ma perché il dittatore ha fatto una bestia? Guarda che bello, guarda che aria lunga, perché il dittatore ha creato una bestia così brutta? Poi lo vedi in volo, no? E lo capisci di qual era il suo elemento, che cos'era destinato, no? L'aria, volare, e quell'elemento di mia mamma è una disgrazia, adesso è prende mia figlia la città per fare la perché non ha dire giù bellino così quando adesso tengo che adesso così parla di questo, cioè sempre con questa sporca dell'ispirazione discusso, però che in quel momento sembrava quasi un sorriso quasi così, ah. Insomma rimaniamo noi della famiglia in salotto, io mi pare mio fratello, tutto è stato bene, non c'è niente da dire, solo ad aspettare il balletto, per cui iniziamo a parlare più del meno. Ora io come padre non ho questo piatto che sa che, cioè essenzialmente io come padre posso parlare di due argomenti, parliamo di due argomenti, cioè di tempo e di funghi. Ora di funghi noi parliamo quando, anzi di tempo noi parliamo quando lui è a chiedi, io sono a Roma, come è di solito, lui mi chiama, dice che tempo fa lì, ah è lì, cioè c'è la possibilità di ordine un dialogo di quei 3-4 minuti, so, cioè c'è una possibilità di ordine, ma se siete nella stessa stanza è difficile parlare di tempo, per cui diciamo che non deve essere su cose tipo, ma ti ricordi che tempo fece, ma sono l'atmosfera, c'è un piano. Io gli avrò chiesto, ma lui diceva, guarda, se sarebbe stato dei funghi, ma no, non ha più, tu sai, era pazienti che avevano bevuto abbastanza, però sotto quel faggio che si era giocato d'ottura ci ho trovato tre bei porcini belli preziosi, e parlavo così di funghi, mio padre ho avvertito di questa cosa, cerco di parlare, che sono ospitato, perché ho sensazione, io ero felice, ma proprio felice, felice, come non mi sembrava di essere mai stato in vita mia, e mi sembrava che per la prima volta sto parlando con mio padre, però non è che parlavo per sottintesi di sa che cosa c'è con gli altri, ma parlavo di funghi. Però io in quella situazione quello che io vado per dire quanto è bello che esistano i funghi, quanto è prezioso che i funghi per dare spore, queste spore si nascondono sotto le foglie delle faggete quando piove queste spunti in fuori, e adesso diciamo a freddo dopo cerco anche di capire perché lo dice il problema, perché è come se tu per parlare del presente devi per esserci veramente nel presente devi avere presente non solo il presente ma anche il passato, ma anche il futuro, non solo, ma forse devi avere presente anche tutte le cose che avrebbero potuto essere nel passato che non sono state, e le cose che potrebbero essere, ma forse chissà, quelle magari non saranno. Io prima che ho tutto presente, l'altro mai parlavo con un padre, parlavo con i funghi, ero felice, date un attimo dopo mio padre mi si avvicina, mi vede tutto così radio, mi fa, tu sei forte come mio padre, che era morto il gioco, cioè, non ero così. Però io non ero forte, io sono stupidamente felice, ma come glielo facevo spiegare? No, allora questo è uno spettacolo per provare a spiegare, diciamo, questa cosa. E poi allora ci sono altre cose, so che uno avverte, sente così, cioè per esempio la prima cosa che a freddo sembra stupida, però noi volevamo essere ottimisti su Badia, ci dicevamo ok, chiaro che nel tempo c'è dei mossi, però ottimisti, l'ottimismo della ragione non sono felice, dicevamo bene, dare la bambina più fotografata del mondo, è la prima volta che la veniamo questo sito, l'abbiamo presentato in Badia, ok, perderà un po', tanto come devo raccontare una bambina di 3 anni, che lei è un occhio solo, che ti inventi, come glielo spieghi, cosa, che storia, io non ci ho passato notte per inventarmi le storie su questa cosa qua, è un'altra cosa che sembra ancora più fregina, la prendo, ma mi assicuro che io non ci do il giro, cioè sarà meglio l'occhio di vetro o la benda come campionato, allora tu sei maschio, non c'è partita, benda, cioè io penso che sarei cavato un occhio per, in qualche modo per deve essere partita con una benda, però la bambina, cioè è più delicata, e poi naturalmente ci sono le cose che interessano di più, dentro perché le cose così, io non un po' di più, cioè perché associare questa malattia retinoblastoma con la luna? Cioè, allora, qui da un lato è un evento mediatico, molto discusso, del quale ancora si discute se sia avvenuto o meno la luna, soprattutto le fotografie vengono interrogate per dire non è successo. Quindi la fotografia è come strumento che copre, nasconde la realtà. E dall'altro lato invece retinoblastoma, cioè questa malattia, la unica possibilità di diagnosi precoce è attraverso la fotografia. Quindi la fotografia è come strumento salvifico che ti rivela la realtà, in questa dicotomia tra realtà e rappresentazione non potevano interessare nel suo dramma. E poi c'è una cosa ancora più banale, cioè la visione binoculare, allora anche se avete vedendo tutto quello che mi trovo sul sediale, non so così approfondito che vado a fare certe cose, cioè noi abbiamo 2 occhi per valutare le distanze, le cose per approfondire il campo, allora in qualche modo con un occhio solo non hai in condizione la distanza tra le cose, allora metaforicamente in qualche modo, se non fatti guardare con un occhio solo, il dito e la luna si possono toccare, perché sembrava una metafora molto carina dello sguardo infantile. Ora, io prima di decidere di questo materiale di quadro di una sola figlia non volevo fare quello spettacolo, non bastava fare uno spettacolo anche tirata così informale, avevo chiesto a un mio amico e collega che non so se nominare questa sera, ma sì, si chiama Dario Gioli e dirige anche questo teatro, ma insomma lui è un drammaturgo e tra le altre cose che fa è un disegnatore di luce, io ho chiesto un bel disegno luce, bello, movente, insomma, poi io ho detto non voglio un disegno luce, faccio uno spettacolo con una chiacchierata, un po' di sgregare, un po' smoderno, basta un piazzato bianco, e lui dice, vabbè dai, almeno una luce bella per fare. Allora dico, ok, una per concedere, questo è il momento in cui io metto la luce bella di Dario Gioli, quindi un attimo che sembra il momento giusto. Okay. Le emozioni estetiche della serata sono finite anche queste, ce ne sono altre tranquillità. E questo è il momento anche per questa della ragione, e questo è il momento del momento. È il momento anche in cui si possono aspettare, perché secondo me tu metteresti la musica, no? Cioè, però attenzione, siccome è uno spettacolo un po' spoderno, cosentino, un giovane sperimentale, cioè non è che metti una musica che sta bene con le emozioni del cazzo, tra le tue figlie della morte, tra le occhie, metti che dovrebbe di morte, no, metti una cosa postmoderna sperimentale, che sono un po' contrasto, una tintarella di luna, e tanto stai guardando la morte, così felice, no, guarda che luna, e tutti i piccoli, tutti i piccoli, gli spettatori che ti guardano e fanno, che coraggio, cioè che forse è espressivo, adesso guardando la morte, sono figlia, e tanto, guarda che luna, cioè, cioè perché a volte il teatro, specie questo corpo da cantina, si accettiamo un po' così, no? Facciamo vedere che sono, allora ci strizziamo con l'occhio, allora qui siamo un altro breve digressione per dire perché mi sospetto che sono ospedale, non faccio queste cose, che un tempo fa mi fa mio padre sta male, secondo me la vita genitore, quindi insomma ci vediamo su tutti i tre, sta stava facendo una roba al cervello, bisogna operarlo. Per fare l'operazione serie da che lì, come da Roma si va, ogni Dio, scambio che fa Bologna, lo portiamo a Bologna, viene ricordato questo bellissimo di Bologna, come ovviamente a Roma non ce ne sono, lo ricordo per 3 giorni, all'inizio del 4° giorno lo prendono, lo fanno stendere su uno dei bigliettini che scorrono sotto la sala operatoria, lo diventano sopra questo vertigolo di quelli veri donne, mi sa che ti lascia scoperta solo la parte da operare, scoperta la testa, quindi aveva il volto scoperto, ci si vedeva, già un inizio di preanestesia in corpo, però era ancora cosciente, così aveva la faccia un po' contratta, però c'erano i miei figli, c'erano io e mio fratello che assistono, quindi si teneva, servono anche questi figli, e insomma, gentili con i miei lo stanno portando verso il montacarichi, lo porto su, giù, insomma, nella sala operatoria, e siamo io e mio fratello, qua c'è lui, ci guardiamo, e insomma, tu per 40 anni non tuo padre era nato, solo in tempo di lui, sta andando in un posto dove al 50% non torna, e tu senti, io ho sentito, chi gli devi dire qualcosa? Ti dovresti dire qualcosa, ci dovremmo dire qualcosa che però non è facile, cioè perché poi è un momento e poi che cazzo so, cioè sei tu papà, cioè tu vai messo al mondo, assumi le tue responsabilità, cioè parte di quel discorso, io eventualmente cioè quello che ti metti al mondo, assumi le tue responsabilità, cioè quindi sai che una cosa in quella maniera che si dice occhi negli occhi degli stati che durano una vita, cioè a un certo punto lui mi fa così. Io vado, via. Come dire, Andrea, figlio mio, va tutto bene, lo sappiamo quando fanno certe cose, noi lo sappiamo quando è la vita, lo sappiamo quando è l'amore, cioè lo sappiamo un caso. Io non lo so quello che si capiva. Allora, se tu ti sei volete messo al mondo, li sai, dimmi, cioè dimmi, non ho il diritto, cioè voglio messo al mondo, spiegami. Se invece, allora, scusa, questo ospedale, è per mia figlia, io le cose che ci riesco a dire, ma proprio un sforzo quello di dirle con tutta la mia sapienza tra una e l'altra, ma perché non ci riesco a dire? Perché non le so, perché non si sa, allora non è che faccio finta, io faccio. Allora, cioè adesso dobbiamo un attimo contestualizzare questo momento specifico di stasera. Scemo lì, sta a casa tranquillamente, chi è addirittura a Bologna, o che ne so, insomma, dove sta? No, e dici, ma che cazzo facciamo stasera? Vabbè, tanto non è secondo a Roma, magari facciamo qualcosa di simpatico, cioè ci sono situazioni, no? Dici, ci sta, io dici così, ti non fai niente, fai un spettacolo, così andiamo a vedere questo cosiddio. Arrivi, e per chi sta papagno? Ah, non è bello, cioè non è bello nominare un martedì sera come la chiesa. Quindi, allora, però il mio regista, con estrema sapienza, sto per strammatrucizzare questo momento drammaturgico, ha deciso di farmi indossare questo simpatico cappello da barba papà, cioè che sarebbe questo simpatico personaggio infantile che assume tutte le forme che vuole un barba papà, diciamo, cioè vuole diventare un frigorifero, diventa un frigorifero, vuole diventare la canola, diventa la canola, non lo so, il vostro onore stasera, che cazzo sia voluto diventare, sto cazzo di barba, ma c'è un saputo, che avvengono sulla mia testa, non è che possiamo sapere cos'è che cosa non sarà, è per tornare così siamo tornati al mondo, cioè quello che ci interessa veramente, cioè se ci sono andati o no gli americani sono noi, è questo che ci interessa profondamente. Allora, mo sai che ci sono cose che avvenivano sulle nostre teste, da Cia Nasso, che non si potevano sapere, però per mia fortuna e cose, io c'ho questo compagno mio che all'epoca, diciamo, adesso attempato all'epoca, era un radioamatore, quindi non so se era radioamatore degli anni 60, siamo in baracchini, mentre c'è già lo chiamo. Non solo, era di autonomia operaia, quindi non si fidava tanto di io, voglio veramente sapere se ce vanno su lui. Non solo, diciamo, abitava al terzo piano, quindi in posizione privilegiata per intercettare, diciamo, le comunicazioni di questo erano. Ora, naturalmente si sa benissimo che gli americani dalla base alla volo 11 comunicavano con codici segreti, no? Proprio per non farsi intercettare, beh, così è d'autonomia operaia, evidentemente. Solo che lui, fortunosamente, aveva trovato le edicole sotto casa, i fascicoli di Agostini, con le codici segreti, dei codici segreti a casa. E se era studiato meticolosamente, proprio se si è femministi, questa era gente seria meticolosa, se era studiato fino dal primo volume, quella più fromo, moltissimo bene, fino a quelli più sofisticati, il 12° do you like, e capotti, e ciò. E la notte dal 22:69 si mette al terzo piano col paracchino puntato verso la volo 11, ha intercettato tutte le comunicazioni, ha decodificato e registrato, ma fate solo a un certo all'inizio tutto bene, ma voglio, ok, fine, ok, Roger, come. A un certo momento si sente stile, Roger, what's up? There's something strange here, Roger, speak, there's something unexplicable, cerca di spiegarlo sul sesto volume di così, what, speak, Roger. Ci stavano gli extraterrestri, cioè sulla luna, cioè è arrivato anche, mi sembrava davanti, gli extraterrestri così. Io non stavo proprio così, se adesso perché anatomicamente parlando non c'hanno il mondo, se adesso cioè non c'hanno questa possibilità prosemica, però siccome comunicano con noi a livello telepatico, gli hanno mandato una immagine telepatica tipo 3D così, e gli americani ci avevano benissimo, ci sono se adesso, da Telegram, insomma, queste storie ufficiali, gli hanno mandato questa targhetta di 5 ottonato, ho scritto, veniamo in pace per conto dell'umanità, cioè se non c'è il lettore che ti porti a fare il volume, cioè chiaro lo sapevano, infatti hanno, insomma, come se mi stesse adesso così, ci fanno. E hai fatto anche un capo tipo che una conversazione amichevole, no? Sai come ha fatto il CRS? Cioè non mi ha fatto proprio così perché non c'hanno neanche il posto, cioè sono proprio a livello anatomico non hanno giù niente praticamente, però sempre a livello telepatico gli ha fatto immagini mentali, come dite Natali, vattene, voi americani, guardate che state facendo, il Vietnam, il Napalm, i ragazzini bruciati, quando sarete spiritualmente pronti vi accoglieremo negli spazi interstellari, adesso no, perché pure i russi, per proprio di distanza politica, di far condice, lo sapevano benissimo, i russi ci stavano stessi, poi se sai, però che solo che i russi, trotskisti, leninisti, un po' furbetti che hanno fatto leninisti, che hanno mandato in Italia, che i ritrenzi non scrivano. E spiritualmente voluta, cioè sono portato sulla luna, gli volevano bene, stavano là, che stavano nei primi tre giorni dell'anno, stava là un po' così in ballo, ma che c'ha bisogno di cuore? Poi hanno capito l'esigenza e telepaticamente gli hanno fatto spuntare un piombo e lei si è sfogata la bici, cioè perché su buoni gli stare resi, volevano più bene, sta che niente, sulla luna non c'è un cazzo, non gli hanno fatto spuntare le armette telepatiche, il laghetto, pure i bastoncini telepatici che gli lanciavano telepaticamente e tornava senza un cazzo, in bocca ma felice, cioè stava sulla luna, non c'è niente, si pensava di star figlio da lì, perché sono buoni. Sono veramente, solo che sono veramente grassi, sono sovrappeso, hanno una specie di soccoletti, cioè per questo hanno dovuto fare tutte le foto finte degli americani, perché erano troppo brutti, ma non le potevano presentare, cioè hanno una specie di salsiccia davanti di loro posto, somigliano praticamente dei cattivi. Anzi, se vogliamo dire tutta scientificamente quello che gli dà, perché siete in pochi ma competenti. Diciamo, la faccenda è stata così. All'origine della vita, come tutti sappiamo, Darwin ci insegna, c'è il giri non fanno siccome, diciamo. Poi a un certo punto se riporta la cosa scientifica, diciamo, con la selezione della specie, si riporta in due specie distinte, scimmie e capire, e qui siamo nel testo genere, come solito questa roba. A un certo punto si arriva all'anzio superiore e arriva questo monolito, no? Le scimmie toccano il monolito e poi diventano intelligenti e con tutto quello che sappiamo. Quello che ancora non si sa, è una scoperta recente che verrà pubblicata solamente con il nostro scientifico americano. Che pure i capiri avevano toccato il monolito, ma proprio con intenzione, quindi vediamo che assorbinarsi, vediamo che succede, vediamo che ce fa, cioè c'è un ottimismo pure, cioè pure i capiri erano diventati intelligenti, solo che succede? Non c'avevano il pollice opponibile, cioè due zoccoletti murati, non hanno un ratito per la spiaggia, ci riesce, cioè tutte le piante che cascavano tutto, non c'avevano una stazione retta, che cascavano 300 kg pesantemente a terra, non si potevano sviluppare le tecnologie, per cui si sono inventati le telepatie, si sono allontanati delle telepatie dello scopo, stanno là. Ci aspetto che ci evolviamo pure oggi, se no ci mazzolano pure questo, quindi sarò là, vediamo che infatti sto cercando di purificarmi nel corpo dello spirito, cioè per purificarmi nel corpo quando sono io con domanda e per purificarmi nello spirito sparo cazzate. E sono cazzate, cioè se ne coscienti di soccazzare, non esiste, non vorrei che magari, cioè non esistono i tabili delle mani, cioè una cazzata, cioè solo che è la tecnica zero, cioè io tutte le cazzate che vengono le mette levato, cioè per purificare, cioè faccio spettacoli apposta per praticare, cioè faccio tutte le cazzate le levato e per cui. Vogliamo caso adesso sul teatro di Nola, arriva sta scolaretta di Intervacci, mettiamo, no? A me mi trovano un bello pulito zen e mi portano questo vento, sicuramente più interessante stasera. Voi, pensate di queste cazzate che state ascoltando, sicuramente ve lasciano a terra e siete fortunati se trovate una birra con fuori, ma secondo me non c'è male. Allora, questo, diciamo, è la verità storica che sta facendo, il resto lo vi racconta sta gente, ma sono tutte cazzate. Allora, succede questa chiacchierata sperimentale che faccio un libro. Che finché all'inizio non diceva bene che non compri che le cose non si diverte eccetera, poi a un certo punto vendi sta storia di tua figlia, punk. La gente non c'ha più voglia di quindi devo inventare queste cazzate con i barbapalli cose per cercare, perché poi alla fine insomma c'è uno spettacolo, non è che vengo figlio, è uno spettacolo, secondo me. Però quando c'è la verità, voglio sapere la verità, no, adesso voglio perché cosa. Allora la storia è verità. C'è questo testo che diciamo che siamo usati nel secondo, terzo secolo avanti Cristo, che si intitola proprio una storia, dove diciamo di siamo usati a raccontare sui viaggi. E tra i viaggi che fanno la pronuncia usata ti racconta che è stato anche sulla luna e sulla luna ci sono i lunatici e i lunatici fanno cose strane tipo partorire dei polpacci, si cibano di fumo, fanno una cosa molto poetica anziché morire dei composti direttamente scompaiono in una nuvola che sono molto poeti e soprattutto i lunatici hanno queste cose che quando lo vedo dico ah questa luce non ho spiegato perché non hanno occhi, cioè ce li hanno però li tengono nei cassetti, quando vogliono vedere qualcosa nei cassetti si guardano intorno, quando sono stanchi li guardano intorno prima che voglio sapere guardare in giro, ricordo gli occhi che si e quando ho detto questa cosa, dico questa cosa, non so come, ma ce l'ho in questo spettacolo. Storia vera. Se uno va su internet, su Google, eccetera, cerca l'americano di un angelo dello fitto, no? La prima cosa che compare c'è la conferenza su Diario, sono in piedi, a fianco alla bandiera americana, che smetto, e a fianco ci sono i commenti di autori di operaio, dei nitrogeni. La bandiera smettola. Cioè sulla luna non c'è atmosfera, poi se c'è vento come fa la bandiera centrale? L'abbiamo fregato gli enti, no, vedi, gli imperialisti, quello che è. E sono i commenti di che di questo ragazzi, noi spendiamo milioni di dollari per mandare Armstrong sulla luna e non diamo 50 euro a una sata che ci fa la stecca di qua, la stecca di là, fa sembrare con la bandiera sveglio in un posto dove non può diventare. Perché voi dite, cioè, non è che questi fanno tutte queste operazioni di americani, finalmente c'è cioè, studiano gli scienziati dell'anima, non arriva fino a nulla, poi arriva questo pianta la bandiera. Ok, non c'è questa spenza, non capisco questa cosa qua, no? Perché che ci siamo andati con su, a me non interessa, ma cioè, quello che mi interessa è che si rinfacere questa immagine, che è quello che tutti volevano vedere, una bandiera d'età che spettola in un posto dove niente potrebbe mai spettare. Quindi, assolutamente un artificio. Questa è la verità di questa storia che mi interessa. Altra storia vera, questa qua, questo è un cosiddetto coccodrillo che è uscito dagli archivi della NASA una vecchiana andata dopo l'allunaggio, ed è un cosiddetto coccodrillo, come sappiamo che sono i coccodrilli, quelle robe che i giornali o le telegiornali hanno già pronte in attesa che muoia perché tu ce ne avete tutto. Ora, siccome si sapeva che la missione Apollo 11 era rischiosa al 100%, siamo tornati indietro, gli americani hanno imparato un coccodrillo, nel caso la missione fosse andata male, avrebbe dovuto leggere questo Nixon in modo visione. Ora, io l'ho letto, quando l'ho letto c'era qualcosa che non mi tornava, poi l'ho letto, ho capito, ora vedete se c'è qualcosa che non mi torna. L'avrebbe dovuto leggere Nixon in modo visione, in diretta. Il destino voluto che gli uomini che sono andati sulla Luna per esplorarla in pace rimarranno sulla Luna per riposare in pace. Questi uomini impavidi, Neil Armstrong ed Edwin Aldrin, sanno che non c'è speranza per il loro recupero, ma sanno che c'è speranza per l'umanità e il loro sacrificio. Questi due uomini stanno donando le loro vite per l'obiettivo più nobile dell'umanità, la ricerca della verità, eccetera, eccetera. Cioè, non è dovuto essere. Prima si parla di due uomini, ma erano in tre fino a Apollo 11, c'era anche Collins. Però gli americani sapevano che la parte difficile della Apollo 11 non era quella di loro, era tornare indietro. Per cui chi rischiava di schiantarsi veramente in questa missione? Erano i due che dovevano andare sulla Luna, poi rischiava di rimanere in orbita lunare. Per cui avevo preparato un coccodrillo solo per i due che rischiavano di rimanere in questa missione. Ma c'è quello più strano, cioè il tempo verbale. Questi uomini validi sanno che non c'è speranza per loro, ma sanno che stanno donando al presente. Cioè questo coccodrillo non è scritto come i coccodrilli normali, al passato, no? Muore mai un giorno, fece e rischi tutto. Invece questo è scritto per essere detto. Ma i capelli erano ancora vivi sulla Luna, la possibilità di tornare indietro. Però questo vuol dire quello che io spesso, cioè, immaginiamo che, sai cosa sono le dirette televisive, lo sparto sulla Luna, eccetera. Allora arriva Nixon in mondo visione, magari metà schermo si vede Nixon, metà si vede cosa sta succedendo sulla Luna, no? E lui, il destino è quello che di là vedi questo qua che fa. Cioè, non c'è, cioè, ti fai una figuraccia, no? Allora, se Nixon e il suo ufficio stampa potevano pensare di leggere questa roba in diretta, eccetera, il mondo, tutto il mondo guardava, vuol dire, secondo me, che per metà del tempo che stiamo preparando la missione Apollo 11, Armstrong e Aldrin si avevano a guidare i missili, l'altra metà del tempo si avevano a morire dignitosamente, no? Il gestione e fare discendere. Addirittura, secondo me, perché mi piace lavorare di fantasia, ma non è che non ci siano lì, forse c'è stato il coreografo di Broadway che insegnava Armstrong e Aldrin a danzare con la morte del cigno in condizioni di gravità un sesto, per essere per loro c'è una gravità tale che una specie di maiale come Armstrong avrebbe fatto di 90 kg, avrebbe fatto dei salti che neanche Roberto Polle. Perché sarà forse la più grande scena della televisione di tutti i tempi. È quasi un peccato che non sia così. Comunque, per tornare a noi, il motivo per cui ancora oggi ogni tanto mi dico, ma forse è vero, devi fare una cosa su questa cosa qua, è un'idea che mi è venuta, che secondo me rende tutto quello che c'è di quel poco, quel tanto, forse poco, che c'è di lì che sta facendo. E che è appunto un artificio, un tempo verbale. Cioè io vorrei che tutta questa storia, una storia insomma di la figlia fosse raccontata, potesse tutti subito con un tempo verbale preciso, un tempo imperfetto, che è il tempo con cui noi raccontiamo i nostri sogni, il tempo con cui noi giochiamo con i nostri sogni, tipo una legge. Facciamo che una mattina tutti svegliati e mi dicevi papà papà mi manca un occhio, facciamo che dicevo ma sei sicura, ma il mio mazzo era caduto per terra, cerchiamo insieme, facciamo che cerchiamo insieme ma l'occhio non c'era. Facciamo che gli dice, ma sai, gli occhi sono tondi, ma sarà rotto al piano di sotto, facciamo che scendevamo al piano di sotto, bussavamo alla signora Maria e chiedevamo, signora Maria, che mica ha visto l'occhio d'Italia? Alla signora Maria le mancava la bocca, ho per pazzo la bocca. Facciamo che scendevamo ancora al piano di sotto, bussavamo alla signora Banda, signora Banda, mica ha visto l'occhio d'Italia nella bocca della signora Maria? Alla signora Banda le mancava la bocca, ho per pazzo la bocca. Qui c'è qualche chiedazione che ci sta rubando tutti i pezzettini dei nostri corpacciotti. Facciamo che scendiamo ancora più sotto, possiamo assicurare, signor Mario, mica visto l'occhio di dare la pubblica, signor Maria, e poi signor Mario, no, voi avete visto la mia rotola, e rotolava senza rotola il signor Mario sulle scale. Oggi, picchiaci tempo, qui c'è qualche chiedazione che ci sta rubando tutti i nostri pezzettini dei corpacciotti. Dobbiamo subito dire una riunione straordinaria per chiedere all'amministratore che si chiuda e si cambia le chiavi del portone. Non è possibile che chiunque arrivi e ci rubi tutti i pezzettini di corpo. L'unione straordinaria, signor Consiglio, chi è che va bene? Signor Consiglio, lei va bene, sono l'intellettuale, diciamo, del modello. Certo, diceva, facciamo che diceva, certo che va bene, facciamo che mette fino a la tasca, ma mi chiedeva dalla tasca la bocca della signora Michele. Signor Consiglio, cosa ci faceva quella bocca nella tasca? Ma no, non lo so, facciamo capire che giustificavo, mi chiedeva dalla tasca, l'orecchio della signora mamma. Ah, signor Cosentino, si vergogni, allora è lei l'altro dei nostri corpacciotti, si vergogni, ci restituisca tutti i nostri corpacciotti, vergogna, alla sua età, all'intellettuale della sua età, e facciamo che anche tu, amore mio, mi scegli dal quale, se allora rilascio tutti i nostri pezzettini, e facciamo che allora io ridavo la bocca alla signora Maria, e ridavo l'orecchio alla signora Amanda, e ridavo la bocca alla signora Mario, facciamo che tu mi scegli, e a me qua non lo ritengo. Facciamo quando la storia non si fa molto continuare, ma a volte addirittura ci commuove, in realtà ce ne vediamo una nuova e bella di questa linea. Facciamo che volevamo andare sulla luna perché avevamo saputo che sulla luna è pieno di comodini e tutti i cassetti. E allora ci mettiamo là, io e mia moglie mia, aspettavamo quando ci portasse sulla luna e aspettavamo quando a un certo punto arrivava questo missilotto bianco con sopra scritto con luci, sono un signore simpaticissimo, si chiama Armstrong, che ci diceva che voi volete andare sulla luna, sì, perché ci sei andato, ma no, sono il primo, salite, e salivamo sulla luna. E partiva la Apollo 11. E più alto si allontanava dalla Terra, più la Terra diventava piccola, più la Terra diventava piccola, più la Terra diventava bella, colorata. Questa è una cosa che dicono tutti quelli che sono nello spazio, dicono le cose belle, preziose e fighe di andare nello spazio, gli astronauti. Non è mica vedere lo spazio, è vedere la Terra dello spazio. Che da lontano così di quanto è piccola e colorata, e gli oceani sono ancora blu, e la Terra è verde, e l'atmosfera è una striscia sottilissima, delicatissima, che è un po' come quella banalità che si dice che bisogna allontanarsi dalle cose per capire quanto sono belle e preziose, è una cosa vera, forse addirittura su un'abbia che fa un tuo bell'amore. Ma sentiamo lontani quest'anno, tuo bell'amore, ma bella! Ed era talmente bella, allora mi stava lontano, a un certo punto Armstrong con l'entusiasmo tirava fuori la tromba dal cassetto e iniziava a cantare, iniziava a suonare Grazie Gesù, insieme a tutti quanti cantavamo insieme a volte con Armstrong questo bellissimo viaggio, quando a un certo punto mentre stavo cantando, dallo blog, vediamo una cosa che ci si avvicina, qui ci affiati, qui ci supera, tanto che Armstrong prende subito il telefono e chiama in chiamare, proprio allora che succede, ci stanno sperando, non è possibile, chi sono i russi? No, non sono i russi, no, non è possibile, Roger, rispondete a identificare, sono i cinesi, no, non sono neanche i cinesi, sono gli indiani, chi sono Roger? Sono gli italiani, è la bimba con raziocinio che ci sta superando. Diciamo che siccome poi la bimba ci aveva superato, arrivava lei per prima, non sono spazio, ma ce la prendeva comoda, ci fermavamo un attimo delle croccantine a Caglietta Laica che era 7 anni, finalmente arrivavamo sulla luna, scendevamo sulla luna e c'eravamo solo io e le amore mie sulla luna. E però sulla luna non c'era cassetti, non c'era occhi, non c'era niente, perché non c'è niente sulla luna. Allora rimaniamo così, con le facce un po' così. E facciamo che a un certo punto tu mi dicevi, papà, ti devo dire una cosa all'orecchio, perché mia figlia mi diceva spesso ti devo dire una cosa all'orecchio, ma non è che me lo diceva perché non voleva che gli altri sentissero quello che mi diceva questo. Tanto più che io sono non c'è nessuno a sentire, ci siamo solo io e lei. Non diceva perché voleva che io ascoltassi bene quello che diceva quando diceva così. E quello che mi diceva quando mi diceva così era, sempre, ti voglio tantissimo bene. Facciamo che dicevo che io avrei anche ti voglio tantissimo bene e dicevo pure, mi dispiace con il mio papà. Lo sapevo, papà non poteva non sapere che sulla luna non ci sono occhi, non ci sono cassette, non c'è niente di niente sulla luna, questo non c'è niente di niente neanche sulla terra, capace a parte terra, per una cosa bella che ci fosse sulla terra, insomma la situazione non ho parole, non so che cosa raccontarti, non so cosa raccontare, non ho più parole nemmeno per dire mia storia delle stelline. Facciamo che tu mi dicevi, ma no, papà. Beh, io quando mi sto divertendo, se non fosse successa questa cosa, non avremmo preso la Apollo 11, non avremmo conosciuto quel signore simpatico che si chiama Armstrong, non avremmo cantato il secondo football, non avremmo visto la terra diventare sempre più piccola, non avremmo dato e poi vedi papà, se sulla luna non c'è niente ci sono anche i tuoi vantaggi, cioè non ci sono neanche le verdurine. Però siccome io ancora facciamo convinto tu mi dicevi guarda papà tu ti sei fatta me per una cosa per se fosse allora guardami e facciamo di prendere tutta questa e ammassare tutta questa polvere di neve di luna e ti facevi un bel pupazzo di neve di luna con tutte le tue cose giusto però non si muoveva, non parlava, non pensava. Allora rimaneva ancora un po' così, me le faccio un po' così. A questo punto facciamo Matteo sex macchina, arrivava dall'alto fischiando un altro, un bel monolito pubblico, infatti tutti quanti appena lo vedevamo ci chiedevamo ma che rappresenta? Facciamo che a un certo punto il tuo pazzo di neve di luna toccava il monolito e immediatamente iniziava a pensare, e immediatamente iniziava a parlare. E la prima cosa che diceva era, ma che rappresenta? Facciamo che a un certo punto a te ti veniva un'idea, amore mio, infatti ti dai fuori un lapis che è sempre in tasca e mi disegnavi sopra il monolito, due occhi da una bocca, ovviamente, sorridevo, e glielo ti dico. Ma chi sei? E facciamo che lui ci rispondeva, però all'orecchio. E allora voi non mi la dico questa cosa, ma è un ospedale che si ricorda che erano dei portati, questo è chiaro. E poi l'altro motivo per cui dico, prima o poi devo fare un ospedale su questa roba qua, e l'idea è venuta per come farlo dire. Un artificio, ancora un artificio, altrettanto semplice, cioè un cambio di tempo. Dall'imperfetto si torna al presente, ed è dall'imperfetto, che è il tempo in cui tutto può cadere, si torna al presente, che è il tempo in cui cade solo ciò che c'è, che in genere è poca roba. Allora, non concentrate tanto le cose che dico, l'improvviso delle cose non trovo. Cercate di dire lo stato in cui dall'imperfetto torno al presente. È esattamente la stessa cosa che mi è successa a me in quel momento. Allora, rincorsa l'imperfetto. Facciamo che dobbiamo tornare sulla terra perché dobbiamo andare a Siena dove c'è una principessa che in un castello manda a tutti i tuoi miei. Facciamo che ci vendevamo in macchina, io la mamma Valentina, c'eri tu sul tuo seggiolino con le tue pretelline e di sicurezza, e facciamo che per tutto il viaggio mi spostavo lo specchietto perché non mi interessava guardare le macchine che si giravano e volevo guardare te, facciamo che per tutto il viaggio non ci guardavamo, io dallo specchietto ci facevamo le smorfie, io ti facevo così, tu facevi così, io facevo così e tu facevi così, perché le bambine loro ancora non sanno spezzare. Facciamo che finalmente arriviamo a Siena, davanti a questo castello bellissimo, noi entriamo nel castello e dovevamo seguire la striscia rossa che porta alle principesse che guardano le bambine belle, non dovevamo seguire la striscia verde che porta alle donne che si guardano le fegate, non dovevamo seguire la striscia blu che porta alle vecchie che si guardano i polmoni, soprattutto non seguire la striscia blu che porta alle bimbi che leggono per terra. E finalmente alla fine della striscia rossa c'è questa principessa, no? Bella, bellissima, con dei capelli neri lunghi forti, a quintali di principi azzurri, e questa principessa aveva anche un suo aiutante che diceva adesso dobbiamo guardare gli occhi di questa bellissima bambina e dobbiamo mettere queste goccine. Facciamo che dice no papà, non le voglio le goccine, dai, il premio non è niente, non brucia. Il signor presidente tenga aperto un attimo l'occhio, ti metteva le goccine e tu iniziavi a piangere e a stridare di goccine e di paura. Facciamo che lui diceva adesso dobbiamo mettere davanti a questa macchinetta del guardare, dico no papà ti prego non voglio, signor presidente devi vedere un attimo fermo, poi ti guardavo e dicevo non si capisce, dobbiamo rimettere le goccine, no papà basta le goccine, facciamo che dice dai premio, devi dire signor presidente se non la tiene ferma questa bambina basta un secondo per l'entrata, facciamo un gioco, guarda, giochiamo, contiamo la rovescia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poi facciamo che la principessa ci guardava e ci diceva, non c'è niente. Come scusi? Signor Presidente, siete molto fortunati, è raro che ci siano dei sintomi fotografici che somigliano a quelli che avete un plastomo, ma sua figlia sta benissimo, non ha niente, potrebbe tornare contenta in casa. Avete guardato? Dottor Sergio, la fotografia non è uno specchio, la destra, sinistra, sinistra. E finisce così. Finisce così, non mi sembra neanche contento, dottor Sergio, non è contento. E qui lo so. Per esempio, sono contento. Certo, siamo come non sempre siamo contenti. Siamo l'ultimo dottore. Dobbiamo festeggiare, dai, amore mio, guarda, questo ospedale, cioè questa reggia c'è anche un edicolo, dai, scegli il regalo, cosa vuoi, cos'è, sono la lunga per la qua, quanto viene, nove, ma, poi guarda là, c'è quelle matrette, vedi 50 centesimi, ti cadono le sorprese, dai, e poi importante la sorpresa, cioè non è, cioè, dai, cosa c'è, dentro tutti i pezzettini, dai, tutti i pezzettini, dai, dobbiamo festeggiare, siamo contenti, dobbiamo festeggiare perché siamo contenti, ti ricordi, tra Siena e Roma c'è chiuso il lago di Pesaro, quella volta abbiamo mangiato il pesce di lago, che fa schifo il pesce, ma lì non ci siamo, dai, festeggiamo, dai, sì, ho capito che già passato. Con il braccio, vabbè, la bambina fa, diciamo, ma adesso, vabbè, dai un cracker, non è portato il cracker, vabbè, cioè, ho capito, ce l'ha fa pensare, ma un cracker, vabbè, dai, non fa niente, dai, corriamo, però sta bambina, non sempre, ma mai vuole mangiare, adesso se non perché vuole mangiare, dai, che arriviamo, ecco, vai, se tu sei, ci si lunga, sì, vai, la vuoi, dai, era quella, vai, eccolo qua, chiuso, vabbè, ci sarà una serie, qualcos'altro, niente, tutto chiuso, vabbè, non fa niente, non si muore di fame, tutto c'è, dai, ci torna a Roma, sappiamo il pranzo, un po' deve mangiare, oh, poi sta bambina, metti in genere, metti in macchina, se dormi, adesso sono tutta sveglia, non deve finire, già montati, vabbè, dai, fa qualcosa, dormi, dai, fa. Se non fermavamo a chiusi non beccavamo la ricuta, adesso tocca fare il racconto, guarda, ma poco va al culo, ecco, bene, lo sapevo, guarda che cazzo succede, adesso si va pure la luce, adesso vedi tutte queste cose, non capisco che sta succedendo, io continuo a parlare di cose, benissimo, e io sposto lo specchietto perché non posso guardare te, devo guardare questi stronzi che la luce spegne, se vanno nella notte, ma ecco, dovevamo fare tre notte, dovevamo fare, bene, dai, si arriva a casa, continua a dire cazzate perché spero di fare la prossima scena finale alla luce, perché sarebbe meglio. Supero. Ecco, non mi stanno superando. Allora, dai, forse sto superando, dai, adesso tutto buio. Spengo anche luci così tanto completamente. Dai, su. Sì, ma è pericoloso, lo so che è pericoloso, vai, tira, ma cazzo. E che altro dobbiamo fare? Ecco, meglio ancora. Ma straordinario, vedi, tutta la luce. Ora puoi salire. Senti, sono stanco. Falla mangiare. Dai, se c'è qualcosa di avanzato, dai, cosa c'è? Il minestrone di ieri. Uè, anche c'è una bambina che non vuole mangiare il minestrone. Adesso dai, siamo tutti stanchi da dormire. No, uè, e andiamo a nanna, va bene. Però non spegnere la luce, d'accordo? Però mi leggi una storia, uè, ma io sono l'alfabeto, io non faccio legge. Sai che facciamo legge a papà, che quello è un attore studiato, quello come legge lui, t'addormenti subito. perché mi ha chiamato, chiede la bimba e la luna le spiega che aveva voglia di chiacchierare con qualcuno perché era sola, sorella in mezzo al cielo, e poi dice: questa sera non ci sono le stelle, non so con chi parlare, perché non scendi giù e vieni un po' a casa mia, chiede la bimba, non posso, se me ne vado il cielo resta buio. E se ne accorgono. E poi pensavo per finire, che non farò mai, a un certo punto pensavo di dire che nel buio si sente di un rumore di palette, una cosetta nasale, una cosa del genere. Poi è meglio dopo adesso. Dario, svegliati Dario. Lo so, è buio, ma non aver paura, ci sono qua io. Svegliati, aiuto il mio, amore mio. Svegliati, guarda in alto, guarda. Allora. E poi per finire questo spettacolo, che non farò mai, penso che mi è piaciuta la musica che l'avevo scelta perché l'avevo sentita casualmente proprio nel 2009, che mi era piaciuta, e tanto dice anche, questa non capisco bene l'inglese, ma il ritornello, so che qui c'è chi lo capisce per me, il ritornello dice pink moon, vuol dire luna rosa, luna rosa, eccetera. Tanto non so se ho notato, tutti gli accessori che sono usati sono rosa, cioè c'erano le ragazze formali, sì. Però prima di mettere la canzone Pink Moon che chiude sul spettacolo, mentre insomma pensavo di tutti questi materiali così, una mattina ci svegliamo, dai, facciamo una canzone insieme, che mi racconta un sogno, che era la prima volta che raccontava un sogno, e mentre lo raccontava, dico, questo è perfetto come epilogo di questo non spettacolo. Allora mi sono segnato, l'ho trascritto proprio parola per parola, e adesso vi dico appunto il suo dettaglio, poi metto la musica, poi finita, metto anche le luci a vedere da ragione di farlo con te, perché lui non lo sa che la metto due volte, la metto anche qui. Il sogno di Dario. Io camminavo per la strada senza mamma e senza papà perché ero sempre Dario, però ero diventata grande. Allora incontravo un lupo che mi mangiava e poi mi risputava e mi chiedeva: puoi diventare mia anchetta? Puoi diventare mia anchetta, sì o no? Sì. Nel frattempo è saltato, ovviamente, perché è l'ultima volta. Rovinando uno straordinario finale. Spero che riuscita. La teneva, cioè in forma lieve, cioè l'unico segno che c'era delle calcopie era che nelle notti di luna piena si deve usare standard, che so, cioè così, quando la moglie ci torna a fianco, si era resa praticamente asintomatica, no? Solo mo, cioè, a capirci. Una cosa è che tu, cioè, una ricantropia lieve asintomatica che vivi a piedi canale, oppure una cosa completamente diversa è se sbatti sulla luna, cioè esplode prepotentemente. Quindi una cosa è andata così per farla breve. A partire dall'apollo 11, l'equipaggio ci stava davanti, ci stavano polizzate nei comandi, e dietro ci stava chi si stava studiando la parte, cioè perché si, cioè, dove arriva la per fare il piccolo passo più lungo, cioè non siamo così ingenui, cioè non è che si era inventata lì per 10 anni che l'ufficio stampa della NASA dicevo che facevamo di questa, quando arriva hanno guardato una serie di ipotesi, quindi saranno ripetendo male canta all'altro, cioè, allora certo poi sta parlando, gli sembrava solo che Armstrong non è che era un attore, cioè per lui per che aveva fatto l'altro studio, ma un seminario con Demo, cioè, quindi per lui era un monologo impegnativo, stava da un piccolo ripasso prima, si stava muriendo e davanti ai comandi ci stavano polizzati, ai comandi, pure questa cosa dei comandi abbiamo anche lo spadasta per cioè, allora, un missile è una cosa dritta, cioè tu vedi la luna e ti spara, cioè non è che ci sta tanto a comandare, no? Cioè poi il resto che cavolo, solo che questi alla NASA hanno trovato questi ragazzi, tanti sacrifici, fin da gioco quello fogli astronauti, abbiamo una gratificazione, gli hanno messo un volantuccio. Pure un cambio a 6 marci, un po' fanno pure lo specchietto, perché che una così eccetera, insomma, per dargli una gratificazione, insomma, poi quando metto la mia figlia sopra il giorno, cioè, la giostra fa così, implacabilmente, per più, però lui dice, gira, ma, e quelli stavano tutti così felici, no? E lui stava, questi davanti stavano così, e lo spottevano, dice, vieni, guarda questa cosa, molto spesso così, perché tu stai studiando il sistema di vedi, fai le mie scombate, un terzo di viaggio Anthony si sono cominciato a spuntare tutti i peli pim pim pim ti vedi dal terzo pure tu pure tu la faccio la lingua e ti vedi tu vedi qui dal terzo che devo stare ricano quello che è un cliente proprio bello cioè ci vengo a me la faffa e lo faccio mi piace tantissimo i miei attenti li vedi tutti e tre ma che cazzo stai dire guarda sto comando a metà viaggio che sono andato in quello da dietro se ne mangia tutte e due interi con l'esia non ci ha lasciato niente con l'esia giusto ha lasciato giusto uno stingo di altri nel tutto il mondo da dire sulla luna e io direi ci sono per più utilità per l'inizio arriva la Apollo 11 sulla luna sale lo sportello ci stava questo che tutto un pelo una zana una rete così oh, tu immagini nelle sinapsi del suo cervello migliaia di grandi anni di gruppi e di tanto che gli hanno alzato la testa al cielo per volare la luna guarda in alto un cazzo guarda in basso